Rassegna Stampa Europa. Buongiorno, buon sabato da Giulia Crivelli, ben trovati alla nostra rassegna stampa europea, la seconda già di questo nuovo anno. E cominciamo questa volta da una vignetta, è una vignetta abbastanza divertente, apparsa sull'Independent. È una raffigura una Angela Merkel vestita da Babbo Natale, un Babbo Natale bello in carne, perché Angela Merkel non è esattamente un fuscello, è una vignetta apparsa sull'Independent, appunto, quindi un giornale inglese. Perciò si cerca di imitare un po' l'accento che nessun tedesco riuscirà mai a togliersi quando parla inglese, quindi il suo fumetto è "So, what can I give you?", che vuol dire "che cosa ti posso regalare?", e in braccio a David Cameron, che le chiede piccolo piccolo rispetto a lei che sembra una gigantesca Babba Natale: "Oh, anything, anything, qualsiasi cosa, qualsiasi cosa". Il riferimento è al fatto che nei suoi auguri per il nuovo anno il premier britannico David Cameron ha confermato, perché ne abbiamo parlato tanto nelle settimane e nei mesi scorsi, che ci sarà un referendum sulla permanenza o meno nel Regno Unito nell'Unione Europea. Da qui la data non è fissata, potrebbe essere da qui al 2017. Aspetta, inutile forse anche ripeterlo, il Regno Unito non è parte della zona euro, ha sempre conservato la sua sterlina, è però parte del Regno Unito. David Cameron ha anche spiegato che sta negoziando duramente per sistemare ciò che più infastidisce i britannici nella loro relazione con l'Unione Europea. E questo è un tema molto importante per l'Unione Europea, perché è chiaro che se il Regno Unito, uno dei sei membri fondatori dell'Unione, veramente decidesse di lasciarla, avrebbe un peso ben diverso rispetto magari a una exit di un altro paese. E il riferimento alla vignetta e l'unione tra questi due primi ministri, quello britannico e quello della Germania, la cancelliera è il primo ministro della Germania, nel suo discorso di fine anno appunto la cancelliera tedesca ha messo invece l'accento sulla solidarietà con i rifugiati che sono giunti in Germania l'anno scorso e che arriveranno nel 2016, naturalmente inutile aggiungere che questo era precedente poi allo scandalo che stiamo vedendo in questi giorni e che è scoppiato con qualche giorno di ritardo rispetto a Capodanno sull'ondata di molestie sessuali che moltissime donne a Colonia, ma non soltanto, avrebbero subito proprio da immigrati. A proposito di Brexit, che è questo termine con cui si intende la possibile, speriamo, questo sapete, l'ho detto tante volte, assolutamente come non auspicabile uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea, viene chiamata Brexit. Sul Corriere della Sera di qualche giorno fa è apparso un articolo di Lorenzo Binismaghi, che per molti anni è stato membro del consiglio direttivo della Banca Centrale Europea, e il titolo dell'intervento è "La Brexit non conviene né agli inglesi né all'UE". Nel 2016 i cittadini della Gran Bretagna saranno chiamati a decidere, in realtà abbiamo sentito che Cameron ha detto magari entro il 2017, comunque è probabile che sarà, in realtà questo referendum sarà anticipato al 2016, quindi saranno chiamati a decidere se restare nell'Unione o no. Secondo Binismaghi l'uscita sarebbe meno problematica della Grexit, sapete, la paventata e mai avvenuta uscita dalla Grecia invece sia dalla zona euro che dall'Unione Europea, ma Londra perderebbe competitività internazionale. Questo dicono i numeri, questo dicono gli economisti, ma poi Cameron in particolare, che è il primo ministro, d'accordo, è stato rieletto da poco, quindi non ha così la paura dell'imminente consultazione politica, però i politici a volte ragionano non solo sui dati economici ma anche sugli umori dell'opinione pubblica o a volte di parte dell'opinione pubblica, come gliela consegnano i sondaggi. Passiamo a un altro paese. Questa è un'opinione che trovate su Internazionale di questa settimana, che è tornato in edicola dopo le due settimane in cui sono state un po' coperte dal numero speciale con le storie di Natale e Capodanno, come succede ogni anno. Nel numero di questa settimana c'è un interessante intervento di Olivier Roy, che è il presidente è un professore di scienze politiche francese, è un esperto di Islam e insegna all'Istituto Universitario Europeo di Fiesole. Il suo ultimo libro pubblicato in Italia si intitola "La Santa Ignoranza". Il titolo di questo articolo è "In Francia la sinistra non ha più cittadinanza", e in realtà poi possiamo anche vedere dei paralleli con la situazione italiana. Sapete che in tanti considerano il PD, o comunque il PD di Renzi, nemmeno più un partito di sinistra. In ogni caso il riferimento in particolare a Oliver Roy è una proposta di legge che priverebbe del passaporto francese i condannati per terrorismo. È una questione simbolica, ma i simboli sono l'unica cosa che resta alla sinistra, scrive Oliver Roy. A proposito di elezioni, ci sono state, le abbiamo seguite, quelle spagnole, e la Spagna però, nonostante questo voto, è ancora ben lontana dall'aver trovato una nuova stabilità politica che esce da questa novità per il sistema politico spagnolo, che non è più bipartitico come è stato per tanti anni, con un forte partito di centrosinistra, il PSOE, e un forte partito, il Partito Popolare, e un forte partito di centrodestra, ma è ora quadripartitico, perché si sono uniti e hanno ottenuto molti voti alle ultime politiche. Podemos, che è un movimento che spesso viene affiancato o paragonato al nostro Movimento 5 Stelle, e Ciudadanos, che invece è un partito, anche questo un partito più simile a un movimento che a un vero e proprio partito politico, e però non è così spostato verso sinistra come Podemos. Il titolo del periodico di Catalunya è in realtà concentrato anche sulla situazione della Catalogna. Il titolo "La Spagna rischia nuove elezioni" spiega che 20 giorni dopo il voto il paese è ancora senza un governo, perché come era stato previsto proprio a poche ore dal voto, questa situazione di non più chiaro bipartitismo metteva in crisi, perché bisognerebbe creare una specie di grosse coalizioni, ma per ora di questa grosse coalizione non si vede traccia, e quindi la situazione politica in Catalogna allontana la prospettiva di questa grande coalizione. Sapete che la situazione politica della Catalogna, che è in realtà l'eredità di un voto amministrativo e non politico, quindi locale, è quella di una regione che chiede l'indipendenza. Anche in questo caso non è chiaro che esito avrà questa pulsione indipendentista, anche perché forse dopo un'iniziale esaltazione, chiamiamola così, hanno cominciato gli spagnoli stessi e gli abitanti della Catalogna stessa a valutare i molti contro che ci sarebbero a un'indipendenza di questo tipo. Però tant'è che ormai le due questioni, quella nazionale di formare un governo con questi quattro nuovi soggetti politici che devono avere un ruolo, e quella invece regionale, si stanno intrecciando in modo anche negativo, perché nessuna delle due questioni sembra vicina a una soluzione. A proposito proprio della Catalogna, della questione della Catalogna, sempre da Internazionale trovate un articolo di El Mundo che si intitola "L'apprendista stregone". In questo caso viene tracciata la figura di Artur Mas, che è il responsabile, secondo questo articolo di El Mundo, che è un giornale di centrodestra spagnolo, è il responsabile del caos catalano. È indipendentista e un indipendentista, potremmo dire, duro e puro, non vuole scendere a compromessi, pur avendo visto che insomma in tutti questi mesi non si è visto uno spiraglio di questa questione, e che, come dicevo, i cittadini stessi forse cominciano a essere un po' stanchi. Vi segnalo però, visto che siamo ancora davvero all'inizio dell'anno, possiamo avere tante speranze, tanti sogni, tanti desideri, un articolo apparso su Wake Up Europe di Bill Emmott. In questo caso lo potete leggere su voxeurope.eu, il sito che mai abbastanza cito e lodo, che fa questo lavoro meritorio di monitoraggio degli articoli sulle questioni europee, tra l'altro a volte traducendone da lingue che non sono facilmente accessibili. In questo caso l'articolo di Bill Emmott, che è l'ex direttore dell'Economist, ora tra l'altro in Italia collabora con la Stampa, è sicuramente esperto di temi economici, ma in particolare di economia, e tra l'altro ha un particolare amore per l'Italia. Ma in questo articolo fa sei domande per l'Europa. Vi parto dalla prima, perché nei giorni scorsi sono tra l'altro apparsi molti dati sulla disoccupazione sia in Italia che tra l'altro anche negli Stati Uniti, e allora si chiede Bill Emmott: possiamo ridare speranza ai 22,5 milioni di disoccupati nell'Unione Europea, dei quali 17,2 vivono nei 19 paesi dell'Eurozona? E la sua risposta è: mentre la disoccupazione è calata velocemente negli Stati Uniti e nel Regno Unito durante il 2015, il calo è stato più lento nell'Eurozona. Se state cercando spiegando la ragione principale del voto dato a partiti estremisti anti-europei come il Front National in Francia, la Lega Nord in Italia, l'avete trovato. L'economia ha imboccato la strada della ripresa, ma è stata modesta nella maggior parte della zona euro, nonostante il crollo dei prezzi dell'energia sia stato di grande aiuto. Se potesse essere accelerata, creando posti di lavoro e guidando ancora una volta la crescita degli standard di vita, la fiducia nell'Unione Europea e nella globalizzazione in generale comincerebbe a risalire. E quindi torniamo al grande tema appunto dell'Unione Europea, a queste pulsioni di Brexit e a questa anche proprio ostilità che c'è a volte nei confronti delle istituzioni europee. Come vi dicevo, sono 6 però le domande che si pone Bilemot, le trovate tutte sul sito www.voxeurope.eu. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi, mi dimentico spesso ma questa volta mi sono ricordata. Trovate comunque tutte le puntate della rassegna stampa europea, ma anche della per quanto mi riguarda della pillola d'inglese, l'English Bit, sul sito di Radio 24. Potete scaricarle e ascoltarle in podcast. Ancora un buon sabato e un buon anno da Giulia Crivelli. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.